Buongiorno, Miss Dumont. Oh, buongiorno, Mr. Marx. Buongiorno, Miss Schatzinger. No, no, bande convenevoli. Mi chiami il presidente degli Stati Uniti, come si chiama? Hoover. Mi chiami Hoover al telefono. C'è una foto di me fra i ricercati che non mi rende giustizia. Mi invecchia terribilmente, sembro mio padre. Ora che ci penso, non sono io, è mio padre. Ma lasci perdere il presidente, si fermi piuttosto a quanta monta la taglia. Mr. Marx, ho alcune lettere pronte per la sua firma. Non ora né adesso, ho avuto una giornata campale in corte d'assise. Che causa? Del suo mal pianga se stesso, ma ride bene chi ride ultimo. Me la caverò anche stavolta, perché non dovrei. In fondo ho colpito lei per prima. Ma, avvocato, lei ha picchiato una donna. Era della mia taglia, anche un po' più piccola. Peso gallina, occhio e croce. E poi se ogni tanto non venissi denunciato io stesso non avrei nessuna causa da difendere. Ha telefonato qualcuno? Sì, i suoi creditori, uno via l'altro. Sono stufi di telefonare, dicono che bisogna fare qualcosa. Va bene, Miss Dumont, faremo qualcosa. Faremo staccare il telefono. Buona idea. Lei è una gran brava ragazza, le aumento lo stipendio di $10. Sì, anche a lei. Oh, grazie, Mr. Marx. Ah, dica, quel Deca me lo presterebbe fino al giorno di paga? Ma, avvocato, sono mesi che non ricevo lo stipendio. Inoltre mi consta... Ma niente a confronto a quello che lei consta a me. Ma che razza di stenografa è lei? Si guarda intorno, dappertutto un dito di polvere. I pavimenti fanno schifo, i vetri sono tutti lordati dalle mosche. Ma che razza di stenografa è lei? Ma dico, avvocato! No, lasciate dire me. Allora, quel Deca... Non ho un soldo. Già, e lei non avrebbe per caso... Se lo tenga per sé, se non ce l'ha. È tirchia? Io vado di là, se squilla il telefono non risponda, potrebbe aver sbagliato numero. Buongiorno. Salute, hello. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Ravelli, devo vedere il principale. Non c'è, ha un biglietto da visita? Sì, ma non glielo posso dare, è un ricordo di famiglia. Devo vedere il principale. Per quale motivo? Divorzio. L'avvocato è molto occupato. Stenderò io una relazione e gliela presenterò. Vediamo, vediamo. Diversivi, diverticoli, divoramenti. Oh, ecco qui, divorzi. Ha figli? Come no, 6, 5, forse 7. È che non ci vedo tanto bene. Allora vediamo, c'è Pasquale, c'è Susi, c'è Giannino, c'è Pasqualino, c'è Johnny. Ah no, Johnny è il figlio dei vicini. E vabbè, mi sono confuso. E poi c'è quest'ultima creaturina piccola, piccola. Maschietto o femminuccia? E chi può dirlo? Non parla ancora. Da quanto tempo è sposato? Io non sono sposato, mio fratello è sposato. Allora è suo fratello che vuole divorziare? No, ma che lui vuole bene a sua moglie, è felice. Allora è lei che vorrebbe che suo fratello divorziasse? No, ma che io voglio bene a mia cognata, è una brava ragazza, però non sa cucinare. Il marito si lamenta? Quello non si lamenta, va a mangiare in trattoria. E perché non mangia fuori pure lei? Ecco, vede signora, questo è il punto, io non me lo posso permettere, sono disoccupato. E perché non si trova un posto? Giusto, lasciamo perdere il divorzio e datemi un posto. Ne devo parlare con il principale, le faremo sapere. Quando la si può raggiungere? Mai, corro veloce, svicolo, sguscio come un'anguilla. Qual è il suo recapito? No, recapito. Dove abita? Da mio fratello. Si sieda, ora chiamo l'avvocato. Avvocato! Ha trovato quel Deca? No, ma c'è un signore che vuole parlarle per un posto. Un posto? Accetto, ma non lavorerò per meno di $20 la settimana. Ah, c'ho malinteso, avvocato, sono io che cerco un posto. Credo proprio di avere del lavoro per te. Non voglio un lavoro, voglio un posto. Preferenze? Non mi occorrono, non mi piace la sua faccia. Anche a me piace la mia faccia. La tua invece mi ricorda tanto quella di un tale che conoscevo, un certo Salvatore Ravelli. È per caso tuo fratello? Salvatore Ravelli sono io. Salvatore Ravelli sei tu? Ma Salvatore Ravelli in persona. La sfido io che gli somigli. Tuttavia insisto nel dire che c'è una somiglianza. E qui non si parla di soldi. Benissimo, se prometti di non dire niente a riguardo non lo farò neanch'io. D'altra parte ci sono cose molto più importanti del denaro, solo che costano un sacco di soldi. D'accordo, ma dovrete pagarmi chiami profumatamente. Ti darò $6 la settimana e potrai portarti il pranzo. Ma come? Mi sembra poco, eh? Ti darò $6 la settimana e di pranzi potrai portarne due. Una per te e una per me. Ma mica ci campo con $6 la settimana. Ci campi, e questo mi rende molto felice. Sei assunto? Quando incomincio? Adesso, è mezzogiorno passato. Se ti sbrighi puoi essere qui con il pranzo per l'una. Per me è un panino al formaggio, un al prosciutto e una birra. Sì, ma deve darmi soldi, io non ne ho. Esperienza ne hai, perlomeno. A bizzeffe, da 15 anni faccio il professore. Che materia insegni? Nessuna materia, sono professore di mandolino. Musicante! Anch'io una volta ho suonato al conservatorio, ma non mi hanno aperto. E quanto prendi l'ora? $10 per suonare. E per non suonare? 12. Mi sembra giusto e ragionevole. E per andare da qui a quel paese quanto prendi? Soltanto le spese di viaggio. Allora vacci, è strada facendo, vedi di cadere dentro un tombino aperto. Allora come restiamo? Ma sono io che resto, tu te ne vai. Ah, non le conviene, si fa presto a fare i conti. Ieri non sono venuto e questo le costa $12. Oggi sono qui, quindi si fa più mi dieci. Devi $20. Domani me ne vado per sempre, quindi in tutto un milione di dollari, ma non stiamo a litigare per i soldi. Avevo detto $6, facciamo più due. Sì che ce li ho. Rilancia, allora più tre. Vedo, cos'hai? 4K. Bene, hai vinto. Ti do $5, ma non dirlo a nessuno. Anzi no, sono troppi. Ridammeli e puoi dirlo a chi vuoi. Allora siamo d'accordo. E ricordati il motto dello studio. Uno per tutti e tutti per me. E uno per due e tre per quattro, che in totale fa 14. E questi erano gli spiazzanti giochi di parole, gli spostamenti di senso che appartengono notoriamente ai fratelli Marx, e a loro è dedicato, alla loro comicità, questo spettacolo, spettacolo di cui vi stiamo per parlare proprio con gli ideatori che sono qui con me, Emilio Russo e poi Marco Balbi. Mentre avete sentito gli attori, li nomino tutti: Gianni Quilico, Nicola Stravalaci, Fabio Zulli, Cinzia Spanò, e al pianoforte il ragtime di Vicky Schetzing. Allora, tutti voi benvenuti. Grazie. Dunque, lo spettacolo sarà in scena, intanto diciamolo subito, a Milano, al TF Teatro Menotti, fino a stasera, quindi bisogna proprio correre. Poi si ritorna in scena dal 27 al 31 dicembre, e il 31 dicembre c'è una doppia replica, proprio perché ovviamente la notte di San Silvestro. Allora, intanto che cosa abbiamo visto, che cosa abbiamo assistito, dove eravamo? C'era un avvocato, c'era una segretaria un po' strampalata, uno strano personaggio... Che episodi avete scelto di portare in scena che riguardano la comicità dei fratelli Marx? Il lavoro teatrale, il drammaturgico di scrittura che è stato fatto è stato quello proprio di non tanto di fare un collage di gag e di storie dai fratelli Marx, ma di inventarci delle storie, ovviamente con molte citazioni dei fratelli Marx, trattato un po' dalla follia di chi ha visto i film dei fratelli Marx si ricorderà che sono tutti film che comunque non hanno poi un senso finito, e questo è il nostro spettacolo ancora meno, perché non c'è mai una conclusione degna di questa cosa qui. Quindi voi avete preso molte frasi celebri e le avete ricucite in storie che non esistono, che non appartengono alla loro filmografia, ma le avete riportate a teatro secondo le vostre drammaturgie. Sì, ci sono delle citazioni che richiamano a delle avventure dei fratelli Marx, ma sono storie assolutamente inventate. Tutto questo in un improbabile studio di un avvocato investigatore, quindi che è interpretato dallo stesso Groucho Marx nel nostro spettacolo, da Nicola Stravalaci. Non abbiamo voluto usare la iconografia di Groucho Marx, quindi non vedete baffi, occhiali e nasi finti, ma solamente il gusto proprio dell'invenzione delle parole dei fratelli Marx. Che l'altra cosa che volevo aggiungere, che mi piace molto, è il fatto di essere qui in radio, perché molte gag, molte storie dei fratelli Marx hanno avuto dei grandi successi in radio negli anni 30 e 40, perché questa forza delle parole, delle storie, delle invenzioni linguistiche è assolutamente... radiofonica, quindi insomma mentre ascoltavo, abituato ad ascoltarla con una visivamente nel nostro spettacolo, ascoltarla per radio, che devo dire spero che anche gli ascoltatori l'hanno colta, si gode molto questo gusto della allora chiediamolo ai nostri ascoltatori, visto che possono intervenire, ne hanno facoltà e possono farlo attraverso il nostro numero di SMS al 335 5634296, ma anche piazzaverdi@rai.it, per dirci che cosa ne pensano, quanto sono legati magari a questo tipo di comicità e quanto questa comicità possa essere resa attraverso la radio. Stavamo parlando di comicità anche nella prima parte di Piazza Verdi, quando abbiamo parlato di Sogno di un'altra dimensione. Estate c'erano qui i comici, cioè la sottotraccia, l'altra storia che appartiene a quello spettacolo, e dunque di un certo tipo di comicità. Adesso siamo traghettati in tutt'altro tipo di comicità. Allora vorrei chiedere proprio a Emilio Russo qual è la riflessione che poi voi avete fatto sulla comicità dei fratelli Marx, perché ovviamente trattando il loro materiale vi siete dovuti fare delle domande e di conseguenza trovare... Ma sicuramente anche perché loro poi sono stati all'inizio della loro carriera boicottati abbastanza dalle major cinematografiche americane, che si sono accorti molto tardi dei fratelli Marx. È una comicità assolutamente oltre ad essere grottesca e anche eversiva, perché si scherza molto sul potere, scherza molto sugli usi, sulle costituzioni americane, sul rapporto uomo-donna, sulla famiglia. Quindi è una comicità abbastanza, cioè molto molto eversiva rispetto a... ed è forse il punto che ci convince di più, perché poi è una comicità che, oltre ad avere questa lettura ovviamente semplice a primo ascolto, comica, estremamente comica, fa anche pensare molto all'America degli anni 30, al perbenismo americano, che Groucho Marx assolutamente stravolgeva. E poi in fondo se pensiamo che nel maggio del 68 appunto gli studenti francesi che protestavano nel segno di Marx, inteso come Groucho Marx, forse ci fa pensare, cioè gli slogan successivi, una risata vi seppellirà, fa proprio parte del senso della comicità dei fratelli Marx. Non so se Marco vuole aggiungere. Sì, no, la cosa interessante riferita alla comicità dei Marx è che è nata in una maturazione di 20 anni di vaudeville, e quindi di quel tipo di teatro molto musicale e che li spingeva, li trascinava in posti terribili, in teatri con i pubblici più difficili che si possano trovare in un teatro, posti dei quali lo stesso Groucho diceva che non ci avrebbe voluto nemmeno esserci seppellito. E immaginiamoci lavorare, però questo gli ha dato una formazione, una base alla sua e alla loro comicità, che poi loro sono andati col vento in poppa per tutto il resto della carriera, anche se le major, oltre a averli scoperti tardi, li hanno poi sfruttati in un modo non bellissimo, perché loro hanno fatto il botto iniziale con i primi film, facendo incassi milionari nei primi anni 30, e poi le major si sono proposte di mungere questa vacca grassa, lasciando anche poca libertà a loro, e loro ne hanno sempre un po' sofferto, fin quando alla fine Groucho ha lasciato il cinema per dedicarsi totalmente alla televisione. E quindi sono finiti anche loro in questa trita carne. Sì, un pochino, sì. Se posso aggiungere un particolare che è interessante per quanto riguarda i fratelli Marx in Italia, il fascismo ha proibito i film dei fratelli Marx. Tant'è che noi abbiamo visto i primi film dei fratelli Marx solo nel dopoguerra, quindi negli anni 50. Quindi questo fa capire anche quanto fosse eversiva anche la comicità dei fratelli Marx. Sì. Certo. Allora, oggi noi ascoltiamo una versione ovviamente radiofonica spogliata, quindi dell'iconografia della regia, però proprio sulla regia voglio tornare. Prima diamo la parola di nuovo agli attori, che sono Stravalaci, Quillico e Zulli, sempre accompagnati al pianoforte da Vicky Schätzinger. Sono Miss Edgar Jones. Miss Ma, suppongo. Un mio amico mi ha detto che lei è un ottimo avvocato. Lo pensa lei che quello sia un suo amico? Prego, si sieda. Grazie. Ma non ci siamo già visti da qualche parte? Non me ne ricorderei. A proposito, non avrebbe per caso un sigaro da offrirmi? Un sigaro? Beh, se non li ha, li mandi a comprare. Se mi dà $0.50 ci vado io stesso. Avvocato, io non vado d'accordo con mia moglie. Anch'io non vado d'accordo con sua moglie, ma non vado in giro a vantarmene, dovrebbe vergognarsi. Miss Dumon, accompagni questo signore alla porta. Anzi, ripensandoci non occorre, può andarsene da sé come è venuto. Avvocato, io sono qui per un consiglio, lasci che le sponga i fatti. Mia moglie è innamorata di due uomini. Ah, sì, lo so già, me l'hanno raccontata al circolo 3 anni fa e vecchia, gliene racconterò io. Ci riesco, fa troppo ridere. Le dirò una poesia. Avvocati, non sono in vena né di barzellette né di poesie. Io sono qui per un mio problema, per un mio problema. Allora, sbagliato indirizzo. Non sono forte nelle matematiche, nemmeno nelle aritmetiche. Avvocato, io volevo dire un'altra cosa. Io vado cercando prove, prove a carico di mia moglie. Ma perché non me l'ha detto subito? Miss Dumont? Ha un codice? Un codice? Lasci stare, faccio io. Dunque, dovrebbe esserci un precedente interessante nella causa intentata da Emory Gribble contro le ferrovie statali della Cornovaglia nel 1912. Naturalmente si trattava di una ferrovia a scartamento ridotto, talmente ridotto che venne scartata. Ma avvocato, quello è un manuale di diritto ferroviario. Cos'ha che non va? Ben 800 pagine, nemmeno un refuso. La sfido io a trovare un refuso che uno, o anche un principe fuso. Avvocato, lei mi sta facendo girare la testa. Sì, lo so. Io intendo fare causa a mia moglie. Solo per questo, secondo lei, io dovrei comprare un codice civile. Sa che pretese, caro lei. Senta, ma perché invece non fa una bella causa alle ferrovie? Le ferrovie hanno molti più soldi di una moglie e inoltre non pretendono alimenti. Avvocato, non mi va di discutere, sono stanco, nervoso, depresso. Basta così, abbiamo già vinto la causa. Basterà dimostrare che lei è depresso a causa dei continui ritardi ferroviari. Avvocato, lei sta mettendo a dura prova la mia pazienza. Beh, provi lei a mettere a prova la mia, come dice il proverbio. Come dice? Tanto va la gatta al lardo che bel tempo si spera, ma non perdiamoci in chiacchiere. Dunque, lei mi diceva ha bisogno di un uomo che pedini sua moglie, sì, che la segua come un'ombra. Sì. Io l'uomo che fa per lei, il mio assistente, Salvatore Ravelli. Ha l'aria di un idiota e si esprime come un idiota, ma non si lascia ingannare dalle apparenze. Ravelli è veramente un idiota. Lei andrà d'accordo con Ravelli, perché avete molte cose in comune. Avvocato, il mio tempo è prezioso, io devo ottenere questo divorzio. Voglio che il suo assistente, coso, Ravelli, pedini mia moglie. Lo chiami che io gliela possa descrivere. Se la mette su questo piano, glielo chiamo subito. Ravelli! Ravelli! Miss Dumont, svegli Ravelli! Mr. Jones, le dispiace svegliare Miss Dumont? Ma dove sono capitato? Eccomi, capo! Senti un po', io non voglio che tu dorma sul divano dello studio. Ma non piace neanche a me, capo, perché non mi compra un bel letto? Ravelli, Ravelli, ti presento Mr. Jones. Oh, sciante! Non ho capito. Dice che è lieto di fare la tua conoscenza. Probabilmente è pazzo. Come stavo spiegando all'avvocato testé, mia moglie, nonostante la cosa mi dispiaccia, che non è una moglie come si confà, come si confà. Lei va in giro con altri uomini, oibò. Ah, porta in giro che confà bene, confà. E lei pensa sì sì che io possa su compiacerla, coccò? Io questo stozzo. Va bene, vedo che avete un sacco di cose da dirvi. D'altra parte io ho una riunione del consiglio di difesa qui sotto la sala biliardi, vogliate scusarmi? Ma come la sala biliardi, avvocato? Io ho la vaga sensazione che in questo studio le cose non vengono condotte in maniera strettamente professionale. Nel mezzo di un colloquio da fare lei se ne va per andare a giocare a biliardo, a biliardo. No, devo uscire per forza, mica posso giocare a biliardo qui dentro. Non ho l'occorrente, arrivederci signori. Ebbene, coso, vabbè, lì dal momento che lei dovrà pedinare mia moglie sarà opportuno che io gliela descriva. È abbastanza alta di statura, è alticcia. Ma forse faccio prima se le mostro una sua fotografia, beh, una sua fotografia. Mica male, ne prendo una dozzina. E sì, magari anche qualche ingrandimento, non le faccio mica mercato, non ne faccio. Vale a dire che posso averla gratis. Si intende. Ma in tal caso 2 dozzine. Una più che sufficiente. Grazie. Vede cosa, Ravelli, deve sapere che mia moglie in quest'ultimo periodo dedica le sue attenzioni in particolare a un altro uomo, un altro uomo. Lei dovrebbe scoprire di chi si tratta, pensa di riuscirci. Non pensa. Abbia paura, scoprirò chi è l'uomo che se la spassa con sua moglie. E lo scoprirò molto presto. Ma davvero, come fa, come fa? Prima mi travesto. Sì. Poi mi procuro un cane bracco. Sì. Uno di quelli con le orecchie lunghe, lunghe, lunghe. Sì. Col naso fino, fino, fino. Sì. Indico il segugio, senza indugio. Vado a casa sua. Sì. E lo chiedo a sua moglie, no? Ai, già. Io questo lo strozzo. E siamo ancora in compagnia di questa rielaborazione, chiamatemi Groucho, al Teatro TF Menotti di Milano, ancora fino a stasera e poi dal 27 al 31 dicembre. Ne parliamo con Emilio Russi e poi con il regista Marco Balbi. Dunque, proprio di regia volevo parlare perché ancora poco abbiamo detto. Iconograficamente, noi pensiamo ai fratelli Marx, abbiamo tutto un apparato visivo al quale ovviamente ci aggrappiamo. Allora, come si fa a portare a teatro e a magari non prendere in considerazione ciò oppure farlo, rielaborandolo? Che strada avete scelto? La strada è stata quella appunto del rinunciare all'iconografia tradizionale di tutti i personaggi, di tutti i fratelli, perché sarebbe stato molto controproducente. È un po' come rifare Totò, dicevamo, non ha senso. Abbiamo tenuto il tesoro del testo, dei giochi di parole, dei nonsensi, eccetera, eccetera. Emilio Russo ha legato tutto in una storia, non storia, come si diceva prima, e l'abbiamo. L'ambientazione è in qualche modo analoga all'operazione drammaturgica, nel senso che si è creato un ufficio non ufficio, con un fondale che accatasta mobili da ufficio ma in maniera assolutamente disordinata, e al centro della scena ci sono tre porte attigue una all'altra, che creano un movimento vorticoso e continuo di entrate e uscite. Nel ufficio, altra cosa abbastanza incongrua, c'è presente un pianoforte con annessa pianista che, come dice il protagonista, era lì quando ha comprato l'ufficio e quindi lì è rimasta. Movimento vorticoso anche di sms che arrivano da parte dei nostri ascoltatori, devo dire tutti carichi di complimenti per gli attori anche per questa rielaborazione. Allora, c'è un altro aspetto che è intimamente legato alla comicità dei fratelli Marx, che è quello della malinconia. Ed è un po' un aspetto che va sempre a braccetto con la comicità, però con loro in particolare. Come avete scelto di metterla in luce? Che chiave di lettura avete trovato? Beh, forse questo è meglio che risponda Emilio Russo. Mi sembra abbia fatto una scelta decisa in questo senso. Sì, beh, la malinconia non so se è un termine proprio esatto, no? Non direi che abbiamo spinto su quella chiave, e secondo me i fratelli Marx vanno un po' al di là di questo rischio di malinconia. C'è sicuramente un pensiero, c'è uno sguardo verso una società che non... Quella società americana che nasceva negli anni 30, quindi di un perbenismo smisurato, di un razzismo molto forte. E non dimentichiamo che i fratelli Marx non sono ebrei, che sono ebrei da parte di mamma, quindi insomma sono i portatori, i primi esponenti di quella comicità ebraica che poi avremo, soprattutto l'apice con Woody Allen. Io credo che più che di malinconia si possa parlare di un assurdo che arriva a toccare punte surreali, estremi e anche poco terrene, così mi si passa il termine, perché tutto quello che succede nei fratelli Marx sono proprio delle avventure a testa in giù, delle capriole linguistiche, dei vortici senza fine. E il gioco è proprio quello di stargli dietro. La regia di Marco Balbi, in questo senso, che lavora molto sulla velocità, sui ritmi, e quindi quasi come se le parole arrivassero dopo, no? Cioè, queste battute incisive, stralunate, stampanate, arrivano dopo. Quindi questo è un lavoro molto interessante della regia per questo spettacolo. Volevo aggiungere questo, forse non è stato detto, questo è uno spettacolo che è considerato una specie di cult della compagnia, perché siamo già è la sesto anno che lo facciamo, abbiamo cominciato nel cortile dell'Accademia di Brera a luglio, con un successo straordinario che non ci aspettavamo, perché non sapevamo quanto i fratelli Marx fossero amati dai milanesi, dal nostro pubblico. E quindi è quasi, noi pensiamo che questo spettacolo sarà il nostro biglietto da visita per gli anni a venire, perché anche adesso, che è la sesta volta che lo facciamo con timidezza, perché pensavamo che non ci fosse una risposta del pubblico, abbiamo il teatro sempre pieno, quindi siamo felici di tutto ciò. Allora, leggo tra tutti un SMS che contiene anche una domanda. Dice Sergio: la resa comica dei testi dei Marx per radio è straordinaria, quindi quello che dicevamo prima. Mi sono sempre chiesto se il pubblico di allora era in grado di cogliere la portata dirompente della loro comicità. Questa è una domanda bella, non so se sono in grado di rispondere, perché insomma rimettersi nei panni nel pubblico degli anni 30 e 40 non è facile. Sicuramente tutto quello che hanno fatto i fratelli Marx, che ha fatto Groucho Marx, ha sempre avuto un grande successo. Ad esempio Groucho Marx negli anni 50-60 ha fatto una trasmissione di quiz in TV in un network televisivo americano che chiama Better Your Life. Ed è tuttora lo spettacolo di quiz più ascoltato della storia della televisione americana. Allora, benissimo, grazie veramente a voi che ci avete dato la possibilità di ritornare su queste battute, grazie quindi a Emilio Russo, Marco Balbi, Gianni Quillico, Nicola Stravalaci, Fabio Zulli, Cinzia Spanò e Vicky Schetzinger. Tutti loro salutano gli ascoltatori di Radio 3 con un personale augurio con questa canzone che è Santa Claus is Coming. So better watch out, better not cry, better not put down.